Do il benvenuto sui 103.1 a Giancane, che è in collegamento telefonico qui con me e che saluto. Ciao. Ciao Adele, ciao a tutti. Ciao. Inizierei questa chiacchierata prima di lanciare così la serata del 24, tu ti esibirai al Pontelungo Summer Festival qua a Bologna. Questa sarà l'ultima data del tuo tour estivo, già posticipata a causa maltempo. Com'è riprendere dopo un anno e mezzo di chiusura, com'è tornare sul palco? Ah, fortunatamente noi anche l'anno scorso qualche data siamo riusciti a farla, quindi sono contento, quest'anno di più, quindi sono ancora più contento. Ovvio, appena si starà in piedi sarà un po' meglio, Però ringrazio veramente tutti gli organizzatori che ci hanno chiamato, che abbiamo fatto una ventina di date, che in questo anno particolare non è scontato, anzi. Siamo partiti a maggio, anche prima di tutti, c'era ancora il coprifuoco, una bella multa. Ecco. Per non farsi mancare niente. Esatto. Ma infatti, però poi da lì tutto liscio. Come artista, com'è suonare di fronte a un pubblico seduto, purtroppo, aggiungo? Guarda, per il mio progetto, ci posso parlare solamente per me stesso, che non è proprio musica d'ascolto, ecco. No, è un po' più cacciarone, come si dice dalle mie parti. Fa stranissimo, soprattutto perché fino a 2 anni fa, io litigavo proprio con gli organizzatori che mettevano le sedie. Quindi credo che non sia stato facile. Noi non suoniamo. Credo non sia stato facile convivere con questa cosa che è... No, diciamo, abbiamo provato a partire soft, non so come dire, l'anno scorso proprio a Bologna, tra l'altro, proponendo una sorta di acustico. Poi ci siamo veramente rotti, dopo un quarto d'ora abbiamo cominciato a fare le cose normali. Quindi noi il nostro show facciamo quello che facciamo sempre. Ovviamente la risposta è diversa, siamo sempre abituati a averci persone sotto palco, però ecco, al momento è così. Spero che finisca molto presto, ecco. Tu sei un produttore, musicista e cantante, nonché artista. C'è una natura tra queste che prevale più sull'altra o cerchi di unire poi nei tuoi lavori questo mix di cose? Nei miei lavori la parte di produzione sì, la curo, però non manicalmente come faccio per gli altri, mi odio a un certo punto, però in linea di massima sì, diciamo musicista è la cosa più o meno può riassumere tutto, perché canto da poco in realtà, cioè sono pochi anni, da quando esiste Giancane, ho sempre suonato e basta, però scrivendo i miei pezzi è più comodo per me cantarmi le mie cose. Un altro elemento che compare spesso nelle tue canzoni, nei tuoi pezzi e in generale nella tua musica è un po' la tua romanità, questo tratto molto forte sia nelle collaborazioni con Rancore, con Zero Calcare, che tra l'altro ha allietato anche un po' la nostra pandemia, esatto. E poi anche a livello, se vogliamo definirlo un po' più politico, anche poi nei lavori che vai a fare, perché ricordo che un anno fa hai registrato a San Lorenzo, al Nuovo Cinema Palazzo, il disco Unplugged, un disco live. Ti chiedo forse una domanda un po' così, un po' triste, nel senso che di fatto adesso il Nuovo Cinema Palazzo non esiste più, quindi da romano e da musicista romano che comunque porta avanti uno di quei lavori poi anche sul quartiere in cui vive, in cui crede, come si sta in questo senso? Lo so che è triste. È veramente triste, più che altro perché quella, in particolare quell'occupazione lì del Cinema Palazzo nasce spontaneamente dal quartiere, quindi c'è proprio un'altra valenza, perché quello doveva essere un casino, uno di quei cosi tipo Las Vegas, con le sale slot, una cosa di una tristezza infinita. Il quartiere stesso si è mobilitato, non a parte i vari gruppi politici, ma proprio gli anziani del quartiere che si mettono là a cucinare, una cosa strana per Roma quantomeno. E sì, è triste, però va fatto, nel senso, sono battaglie che vanno fatte, vanno portate avanti. Senti in qualche modo che questa battaglia debba essere ancora portata avanti? Hai dei progetti in futuro? Lo so che è difficile prevedere, sì, sempre, in questo senso. Comunque. Non magari il posto è ancora chiuso e penso che rimarrà chiuso perché è di un privato. Il comune so che stava provando a spostare il bene immobile, non proprio spostarlo fisicamente ovviamente, ma dare un'altra sede a quella società privata e aprire lo spazio. Stanno ancora penso discutendo perché diciamo che ad oggi è stato messo un po' da parte per tutti i casini sanitari. Poi ci sono le elezioni da noi, quindi Sì, capisco. Calvario. Qua a Bolla Vogna capiamo bene, perché anche noi siamo sotto elezioni e purtroppo quando si parla di spazi o comunque spazi autogestiti occupati, qua a Bologna siamo abbastanza purtroppo esperti in sgomberi. È un male comune. Esatto. Penso che comunque c'è non si fermerà. Anche perché ci sono varie entità all'interno del cinema che hanno creato proprio, tipo, penso allo sport popolare, cioè l'Atletico San Lorenzo nasce lì dentro anche come sede e continuano a fare quello che fanno, quindi in qualche modo il quartiere non è che è morto, fortunatamente. Certo che qualcosina toccherà fare. Sicuramente sotto elezioni sarà l'ultima cosa a cui si penserà. Ma penso a quel posto, ma ce ne stanno tantissimi. Una necessità che uno che fa musica, penso che debba sposare determinate cause, ma anche semplicemente per pensare a un posto dove crescere e far crescere altre realtà che sono sempre più carenti. Io lì dentro veramente ho fatto forse il primo col secondo concerto lì e sono cresciuto là dentro. Pure con Zero Calcare abbiamo fatto un sacco di raccolte, pure con il mio vecchio gruppo Il Muro del Canto abbiamo comprato l'impianto con una data, cioè è una realtà che va assolutamente protetta, non so come dire. Il 24 tu verrai quindi a Bologna per l'ultima data del tour estivo, hai dei progetti per il futuro, cosa ci attende questa stagione autunnale? Nella mia testa sì, ora tocca capire come politicamente saremo messi, se non ci si scordano di nuovo, anche perché parlando anche in tour, toccando più città da nord a sud, siamo tutti più o meno in attesa che qualcuno ci dica qualcosa, come si potrà fare in inverno, come saranno le varie situazioni, penso, che ne so, al Locomotive a Bologna, non so quanti posti al chiuso potrà avere rispetto alle capienze, tipo il Mock a Roma so che saranno intorno ai 150 al massimo, un posto che prima ne faceva 500, ci sono costi da sostenere, non lo so, è tutto un po' così, io i progetti ce li ho. Sicuramente a novembre uscirà qualcosa, poi si vedrà. Giancane, io ti ringrazio, grazie mille per questa chiacchierata e ci vedremo il 24 sotto grazie il palco. Io seduta, però ci vedremo il 24. Vai, speriamo. Speriamo che il meteo sia clemente questa volta. Grazie. Ti ringrazio. Ciao. Ti ringrazio tutti. Ciao.